al principe delle tenebre, che si è perso tra fango e diamante e cenere, che vive tra le vite ebre, distorte liriche e musiche d'inferno troppo serie e lame d'inverno troppo sere. Vogliono lamarmi l'anima, io la mattina dopo mi alzo e ci scrivo sta rima, sta lirica. Vorrei uccidere quella bestia che ho dentro, sovrastima di molti, a me interessa pulire il diamante dalla fanghiglia del cemento. Cammino solo stando a casa, strade notturne in basa, la testa di rime confusa, testa tabula rasa, camminando sopra defunti in centri diurni. Fata, fatta vestita di me come se la mia anima sia fatta da Armani, la mia stella tatuata sulle mani. Io tipo finto, nel vero sono e sono stato e ho trovato troppo fango per la strada ancora di rango, la finzione di sta gente media adeguarsi, di gente vera finta male e criminale. Ne ho vista tante, ne ho vedute tante, anche dalle scuole un sei in pagella, ma piacevo a tutte ste ragazze più ribelle, signore. Scrivevo mitriche per fare ribattere il mio cuore e il tuo, scrivo il mio nome così in basso che litigo con Lucifero perché è il palco più nero e distante. Sono solo un diamante che si è inciso fango sul braccio, cellula dormiente di una bomba fatta di money e cash, perché scuola si credeva più grande di me. Rush up in my face with big pussy and rice, baby, I'm going to hell to let you fly to paradise. Rub up in my glass with big pussy and rice, baby, I'm going to hell to let you fly to paradise. Preparati, io al principe delle tenebre, bro, che si è perso tra fango e diamante, che vive tra vite distanti ebre e musica di inferi troppo seri e lame d'inverno troppe sere. Digiuno, voglio lamarmi l'anima, io la mattina dopo mi alzo, ci scrivo sta rima, vorrei uccidere quella bestia che ho dentro, sovrastima di molti, a me interessa pulire il diamante dalla famiglia del cemento. Cammino solo stando a casa, strade notturne, la testa invasa, testa tabula rasa, camminando sopra defunti in centri diurni. Fata, fata vestita di me come se la mia anima si è fatta da Armani, la mia stella tatuata sulle mani. Io tipo finto, nel vero solo ho trovato fango per la strada ancora di rango, la finzione di sta gente meglio adeguarsi, di gente vera finta male e criminale. Ne vedo tante, altro dalle scuole un sei in pagella, ma piaceva a tutte ste ragazze il più ribelle, signore. Fuori da sta merda ora scrivo metriche per far ribattere il cuore a me e a te, scrivo il mio nome così in basso che litigo con Lucifero perché è il palco più nero e basso. Sono solo un diamante che si è inciso il fango sul braccio, cellula dormiente di una bomba fatta di money e cash, perché a scuola ci si credeva più grande di me. Rush up in my mind with big pussy arise, baby, I'm going to hell to let you fly to paradise. Rush up in my mind with big pussy arise, baby, I'm going to hell to let you fly to paradise.